Okay. Dunque, la linguistica cosiddetta strutturale si sviluppa in Europa nella prima metà del secolo in parallelo con lo sviluppo di un movimento filosofico che viene chiamato neopositivismo o positivismo logico, diverso dal positivismo dell'Ottocento, di quello di Comte e Spencer, perché dava più importanza alle strutture logiche e linguistiche. E comunque, insomma, vi faccio questa accoppiata perché diciamo negli anni 20 e 30 la linguistica strutturale si sviluppa in una città, principalmente in una città che è Praga, e quindi dà luogo a un gruppo di persone chiamato appunto il Circolo di Praga, in cui dentro ci sono anche tedeschi, però, perché poi Praga in quel periodo era una capitale culturale dell'Europa. Gli studi di linguistica, diciamo, ma in che anni? 20 e 30 del secolo scorso, 20 e 30 del Novecento. Il Circolo di Praga, diciamo, i cui esponenti più importanti infatti sono due russi e non sono due cechi. Uno è Trubetskoy, al quale si deve praticamente la sistemazione di quella parte della linguistica che studia le strutture fondamentali dei suoni, si chiama fonologia, la fonologia non è la fonetica è lo studio dei singoli suoni, dei singoli sistemi di suoni delle singole lingue, c'è una fonetica dell'inglese, una dell'italiano, una del francese, la fonologia invece è lo studio più astratto dell'insieme delle regole, sempre fatto con quei metodi che vi ho detto, le posizioni distintive, eccetera, eccetera. Classificazione dei suoni. E l'altro grande nome invece è Roman Jakobson, il quale invece si dedica a studi di linguistica più generali. Sono i due, poi ce n'è vari altri, ma insomma i due esponenti principali di vi ho nominato però il positivismo logico perché negli stessi anni c'è un altro gruppo in un'altra città vicina, più o meno vicina a Praga, che è Vienna, e quindi c'è un altro circolo, si chiama del Prager Kreis, del Wiener Kreis, circolo di Praga e circolo di Vienna. Il circolo di Vienna, diciamo, è il centro, diciamo, è il gruppo di persone che si situano più sul versante filosofico, logico filosofico. E insomma, ci sono tanti, nominiamo Neurath, nominiamo soprattutto Carnap, Rudolf Carnap, si tratta di austriaci e o di tedeschi, insomma. Carnap, per esempio, è interessante perché anche nel secolo di Vienna si sviluppano riflessioni linguistiche, un po' più esterne agli studi tradizionali di, diciamo, linguistica. I sossuriani stanno a Praga principalmente, diciamo. A Vienna ci stanno, come dire, i positivisti logici o i neopositivisti. Carnap è importante perché è un filosofo e un matematico, e quindi è uno dei grandi della logica del Novecento, e scrive un libro sulla struttura che si chiama La struttura logica del linguaggio. di logische Ausbau der Sprache. E soprattutto però un signore che è il più famoso di tutti e che però poi si staccherà da questa cosa, che si chiama Ludwig Wittgenstein e che scrive l'opera forse più famosa di questo filone di pensiero, diciamo del positivismo logico, del neopositivismo, che ha un titolo latino ma è scritto in tedesco, che si chiama, la scriviamo sopra perché non mi sta giù, che si chiama Tractatus Logico Philosophicus. Devo andare a capo. Filosofia. Due piatta, sì. Trattato su Algo, che è del 22 o del 23, non mi ricordo, 122, 23, l'anno preciso non lo so. Wittgenstein è interessante intanto perché è uno dei più grandi filosofi del Novecento e sicuramente è il più brillante tra quelli del circolo, diciamo, di Vienna, ma è anche quello che più di tutti cambierà idea sul neopositivismo e quindi ritratterà, insomma, non in modo formale, ma si dedicherà, perché poi lui ha una storia molto particolare, è un omosessuale, c'è una serie di casi, c'è un film molto bello su di lui, di Jarman, su Wittgenstein proprio, sulla sua vita. A un certo punto lui, perché era abbastanza giovane quando scrive il trattato, lo pubblica il Tractatus, poi però a un certo punto c'è una crisi di tipo esistenziale, quindi se ne va in Inghilterra e si mette a fare il maestro di scuola elementare, e però ovviamente non può smettere di fare, insomma, filosofia e scrive numerose opere, non pubblica quasi più nulla. Però poi l'opera più importante diciamo rivede molte delle idee del Tractatus e quindi si parla di un primo Wittgenstein, quello del Tractatus, e di un secondo Wittgenstein. L'opera principale del secondo Wittgenstein sono le Philosophische Beobachtungen, Philosophical Observations, osservazioni filosofiche in italiano, scritto in tedesco, che è solo una serie di annotazioni per un libro denso, perché il Tractatus è molto breve, sono meno di 100 pagine, costruito un po' come l'etica di Spinoza, cioè fatto a teoremi, cioè come se fossero a proposizioni, poi anche 1.1.1.1.1.2, un po' come, insomma, che implica già un modo di pensare, cioè un tentativo di spiegare la linguistica con la logica, o come diceva Carnap, di astrarre la struttura logica del linguaggio. In realtà il personaggio forse più famoso per le sue critiche al circolo di Vienna è un altro austriaco, anch'egli, che è Karl Popper, il quale negli anni 30 criticherà le impostazioni neopositiviste del circolo di Vienna, soprattutto nel suo libro La logica della scoperta scientifica, però più sul piano della filosofia della scienza, criticando principalmente l'induttivismo, cioè l'idea che le teorie nascano dall'osservazione dei fatti empirici e che poi si creano le teorie, invece lui proprio dice no, guardate che uno pensa prima le teorie e poi guarda i fatti in relazione alle sue teorie. Questo è uno dei due possibili, diciamo, superamenti del però Popper non affronta mai terreno che legava in qualche maniera il circolo di Vienna al circolo di Praga, cioè l'analisi del linguaggio, mentre invece Wittgenstein lo farà, insomma, e sarà uno dei filosofi del linguaggio più grandi più grandi del, del... Allora, questo era per darvi un po' l'idea del dibattito europeo, insomma, che c'è su questi temi, però andiamo alla sostanza, cioè cerchiamo di capire quali erano, quali potevano essere le, diciamo, i limiti più grossi di una impostazione della linguistica strutturale. Ma prima ancora vi dico però un'altra cosa. Il modello, diciamo, saussuriano, quindi diciamo, il tentativo di trasformare la linguistica quasi in una scienza esatta, sincronica, più sincronica che non diacronica, insomma, ebbe soprattutto nel cioè, ebbe un certo periodo di incubazione negli anni 20 e 30, poi nel secondo dopoguerra dilagò. Nel secondo, cioè, insomma, già durante la guerra, insomma, diciamo, tra gli anni 40 e diciamo 50, lo strutturalismo, che era rimasto a lungo confinato nell'ambito della, diciamo, linguistica, aveva certamente come dire, rinnovato gli studi, diciamo, linguistici, diventa a un certo punto un paradigma, diventa un modello anche per tutti gli altri insieme di studi che vanno sotto il nome di scienze umane, quindi per l'antropologia, per la filosofia, eccetera, eccetera. Antropologia, sociologia, eccetera. Tutte discipline che erano nate per i cazzi loro tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, con una impostazione a metà tra il positivismo e il superamento del, come dire, positivismo, ma che dialogavano evidentemente tra loro, sociologia e antropologia, cioè Durkheim, un francese di origine, diciamo, tedesca, è all'origine tanto dell'antropologia quanto della filosofia moderna, non, della sociologia moderna. Lui non era un etnografo, ma suo nipote è Marcel Mauss, scritto Mauss, è uno dei fondatori dell'antropologia, come dire, moderna, ma cioè che utilizza però anche alcuni strumenti della, diciamo, sociologia. Però per tutta la prima metà del secolo queste nuove scienze, che non si sapeva bene scienze, questi nuovi saperi, queste nuove discipline, che vengono chiamate scienze umane, il fatto che vengano chiamate scienze umane indica che c'era ovviamente un'ascendenza positivista, cioè la volontà, o se volete l'illusione, di fare assumere a questi saperi un metodo il più possibile vicino a quello delle scienze, diciamo, naturali, della fisica, della chimica, in qualche maniera della biologia, di dare a queste discipline lo stesso grado di certezza, insomma, che apparentemente avevano queste, in realtà sia la matematica che la fisica negli anni 30 perdono certezze piuttosto che non diciamo acquisirne, insomma. I teoremi di Gödel in logica e in matematica e il principio di indeterminazione di Heisenberg in fisica dimostrano che queste due scienze si rendono conto di alcuni limiti intrinseci della loro, no? Che c'è una, come dire, una certa incapacità interna, non esterna, alla matematica o alla logica e alla fisica di gestire l'insieme, di descrivere per bene, diciamo, in maniera ordinata e sicura e completa soprattutto il mondo, l'insieme del mondo. Ma nelle scienze, nelle discipline di origine, diciamo così, umanistica o, come dire, umana, il fascino di questo modello delle scienze esatte o delle scienze naturali, che sono delle macchine da guerra che con i loro strumenti spianano il, diciamo, terreno e costruiscono come dire, edifici di sapere solidi e incrollabili, rimane. E quindi c'è un po' questa idea, però molto spesso si tratta in gran parte di aspirazioni molto vaghe. Obiettivamente per il flusso di Saussure, la linguistica sembra l'unico di questi settori che invece sembra costruire davvero una un edificio del genere, senza matematizzarsi in maniera esplicita, questo lo farà Chomsky più anni dopo, ma in polemica con l'impostazione strutturalista. E quindi la linguistica strutturale diventa, la linguistica strutturale, diciamo, sossuriana o post-sossuriana, diventa il modello per anche per una serie di altre scienze umane. La persona, il personaggio che fa questo, che compie questa operazione, principalmente nel campo dell'antropologia, è morto da pochi giorni, e si chiamava, quindi, visto che è morto, Lévi-Strauss. Un francese di origine alsaziana che è morto pochi giorni fa, poco prima di compiere 101 anni. Lévi-Strauss è il fondatore di quella che si chiamerà, e anche l'altra volta, non so perché devono fare, ma c'è una palestra forse sopra qua. Ah, il pollo. Allora, le corse con le bighe negli stadi romani. Allora, Claude Lévi-Strauss fu il fondatore di quella che oggi si chiama, no, che lui stesso chiamò in uno dei suoi libri più famosi, antropologia strutturale. E lui disse, il programma che lui enunciò esplicitamente fino dagli anni 30, cioè fino da quando fece la sua, che poi fu uno che non è che fece mai tanto, insomma, fece un po' di esperienza sul campo, ma non molta, soprattutto in Brasile. Presso con, insomma, dura meno di 10 anni la sua fase di lavoro sul campo. E infatti il primo libro che lo rende famoso nel mondo, insomma, in Francia e anche in altri paesi, è più che altro un libro di racconti delle sue esperienze sul campo, che si chiama Tristi Tropici. Poi dopo Tristi Tropici viene un'altra roba che si chiama, però lui già, prima di scrivere Tristi Tropici, già nel 48-49, mi sembra, aveva scritto il testo che per lui era fondamentale, che si chiama Le strutture elementari della parentela, e nel quale per la prima volta enunciava questo suo programma, questo suo progetto, cioè quello di dare all'antropologia la stessa solidità che secondo lui aveva acquistato la linguistica con Saussure. E che cosa, qual era il punto come fondamentale? Lui dice, io voglio fare quello che, diciamo, che cosa ha fatto Saussure nel campo della linguistica? Ha preso un campo di studi frastagliato, disordinato, con tutta ricchissimo quanto alla analisi dei singoli fenomeni e quindi per esempio delle singole lingue eccetera eccetera, ma privo di una direzione, privo di una diciamo linea, privo di una capacità di leggere e di vedere ciò che unificava tutti questi singoli spezzoni di, diciamo, di studi. Saussure seppe vedere qualche cosa che accomunava, ma da un punto di vista nascosto, che non era visibile, no? Saussure, dice Lévi-Strauss, fu capace di descrivere le strutture profonde della lingua, di ogni linguaggio, o meglio, di tutte le lingue, di tutti i linguaggi, descrivendoli in maniera ordinata, sistematica e soprattutto astratta, cioè dando per la prima volta un vero modello concettuale delle lingue. Lui dice, la stessa cosa voglio fare io con le società orali, le società della scrittura, le società senza la scrittura, perché la gran parte del lavoro degli antropologi ovviamente avveniva in quelle poche ancora società orali, società senza la scrittura, che erano presenti sul pianeta nella prima metà del è scomodissima sta sedia per sedersi come voglio fare io, questa E oh, così va, che prima sennò cascavo giù. E allora cosa dice visto? Cioè che quale campo scegliere, visto? Se sceglie uno dei campi più accidentati e più che è proprio quello, il titolo del libro è Le strutture elementari della parentela, dei sistemi di parentela. I sistemi di parentela erano prima di Lévi-Strauss, ma in gran parte sono ancora adesso, insomma, una delle bestie nere più terribili degli antropologi, degli etnologi, perché nelle società orali, dunque noi non abbiamo, può essere difficile per noi capire i sistemi di parentela, dice, quali abbiamo delle regole noi, sì, ci sono alcune conseguenze più o meno forti, più o meno vaghe del tabù dell'incesto, per cui di norma non avvengono tanti matrimoni tra consanguinei tra noi, sono rari quelli tra cugini di primo grado o quelli tra zio e nipote, ma non sono inesistenti, comunque ci sono. E comunque non sono formalmente proibiti, non c'è una proibizione, per il resto ognuno si può sposare chi diavolo gli pare. Cioè non... Se voi andate in una qualunque società di tipo tribale, società orali, che è nata, la come situazione è completamente diversa, completamente. Queste società sono in genere piccoli gruppi, sono società che vanno da poche decine, poche centinaia a un migliaio al massimo di persone, però sono società fortemente, non gerarchizzate, la gerarchia non è tanto, ma fortemente divise, classificate, c'è la divisione in clan, la divisione in sottogruppi tribali che sono i clan, a volte c'è una divisione vera e propria anche fisica del villaggio che si presenta magari in forma circolare diviso in due semicerchi e ogni clan abita una zona particolare, eccetera. Bene, ognuna di queste culture ha delle regole per sposarsi complicatissime. Un abitante di un certo clan maschio può sposare le femmine di un altro clan particolare preferenzialmente, non può sposare quelle di altri clan, la parentela così acquisita si intreccia con le parentele precedenti e con quelle esclusive, insomma sono storie complicatissime. Gli antropologi uno dei loro compiti principali, insomma, era quello di descrivere i vari sistemi di parentela, che però sembravano diversissimi gli uni dagli altri. In certe culture, per esempio, spesso c'è l'obbligo per la vedova, per la donna che rimane vedova, di sposare il cognato dal lato maschile, cioè il fratello del marito, se c'è. In altre culture questo è un matrimonio proibito e invece è quasi obbligatorio il matrimonio dello zio materno con la figlia, con la nipote, è un casino. Lévi-Strauss mette, vi dico prima, c'è una scrittrice di fantascienza che si chiama Ursula Le Guin, la quale in realtà non si chiama Le Guin perché è il nome del marito, che è un francese, lei si chiamerebbe Ursula Kreber, è figlia di uno dei più grandi, è ancora viva, è vecchiottina, ma insomma è un po' più grande di me, credo, uno dei più grandi antropologi americani, che era Alfred Kreber, quindi lei è una cresciuta in quella cosa lì. Nei suoi romanzi di fantascienza, spessissimo, è molto buffo perché insomma lei, essendo nata a pane e antropologia, quindi insomma pane e etnologia, pane e culture orali, spesso mette nei suoi romanzi di fantascienza, descrive civiltà aliene in realtà come se fossero civiltà terrestri appena cambiate, e quindi spesso trovate questi sistemi complicatissimi di parentele che cambiano come fosse la generazione alternata di certi animali, sapete, come le meduse, no? Che una generazione sono di una forma, poi danno vita a una lepre. Lei per esempio si inventa delle robe con dei cicli del genere, ma con sette passi, con sette, diciamo, come dire, generazioni. C'è un ciclo per cui la situazione torna a essere come era prima dopo sette generazioni successive, con degli intrecci, con delle cose, ma altre robe che però beh, sono, diciamo, interessanti anche, insomma, carini da leggere, questo per dire. E allora, Lévi-Strauss che cosa fa? In questo libro mastodontico, che sono più di 500 pagine, credo, Le strutture elementari della parentela, tenta un lavoro che, insomma, pareva disperato, dice bene, adesso vi farò vedere che dietro a tutta questa apparente caoticità, differenza, addirittura proprio estraneità a volte dei vari sistemi di regole che regolano i matrimoni, una delle attività principali di una società di quel tipo, ci stanno dietro in realtà, se le colleghiamo con i miti che si raccontano e con un'analisi strutturale dei miti, eccetera, eccetera, eccetera, che non ha fatto in quel libro lì, l'ha fatto poi dopo, dice, scopriamo che in realtà c'è una struttura sottostante di cui diciamo l'indigeno, il membro della cultura orale, non cultura primitiva, non il primitivo che non si deve più dire, ma insomma, che è un termine un po' offensivo, insomma, il membro della cultura orale, è una struttura di cui gli autoctoni non sono consapevoli, esattamente come noi non siamo consapevoli, a meno che non la studiamo, della struttura linguistica. Noi possiamo parlare anche senza conoscere la grammatica, più o meno, certamente, ripeto. Ripeto che i casi di alcuni politici ci farebbero pensare il scontrario, però diciamo, a volte ci sono persone che parlano veramente bene un normale italiano e non sanno nulla di grammatica, di analisi logica, non occorre saperla per parlare, si impara a parlare, si impara così, quindi idem questi qua imparano a sposarsi in quel modo, non sono consapevoli che è dietro, però l'antropologo studia e scopre questa struttura. È la stessa cosa, dice Lévi-Strauss, che ha fatto Saussure con la linguistica, che lui spesso dice, l'esempio, la cosa, questo per dirvi la forza di penetrazione del paradigma, diciamo, saussuriano. La cultura europea, non tutta, insomma, ovviamente, rimangono i nostalgici dello storicismo, tra cui molti marxisti italiani, che sono più hegeliani che erano più, diciamo, hegeliani che non marxisti, questo spiega la debolezza teorica del marxismo in Italia, se tenete conto poi del fatto che Gramsci era uno che forse aveva subito più l'influenza di Croce che non di Marx, e che era il principale teorico, che fu il principale teorico del marxismo italiano negli anni 20 e 30, avete già capito che. Ma nel resto, diciamo, d'Europa il panorama culturale è prevalentemente strutturalista. Lo strutturalismo è una che dura poco, perché già verso la fine degli anni 60, già nel corso degli anni, insomma, 60, si vedono i limiti di questa cosa. Però è un modello. Lévi-Strauss, ripeto, è il più grande. Allora vi leggo i libri principali, quindi Le strutture elementari della parentela, Tristi tropici, che è un libro. Gruppo di viaggi, poi seguono i due volumi chiamati Antropologia strutturale e Antropologia strutturale 2, che sono raccolte di saggi in cui poi, però il termine è durante il titolo, Antropologia strutturale, la cui idea è sempre quella, trovare le strutture che stanno sotto la diversificazione, la varietà dei miti, fino all'ultima grande opera della sua vita, che sono quattro volumi chiamati mitologiche, che sono Il crudo e il cotto, Dal miele alle ceneri, L'origine delle buone maniere a tavola e L'uomo nudo, mi pare siano questi quattro, sono in dubbio sull'ultimo titolo, ma i primi tre sono giusti. Il crudo e il cotto, Dal miele alle ceneri, L'origine delle buone maniere a tavola e... e credo sia questo. Poi ne ha fatti altri dopo, in cui tenta di fare la stessa operazione che aveva fatto quando era giovane sulla parentela, tenta di farla con i miti, cioè prende in esame una, In realtà probabilmente mentre sulla parentela si può discutere, ma il modello sembra abbastanza compatto. In realtà in questo libro, in questi quattro libri, questi quattro volumoni grossi, non, secondo me non riesce a fare nulla di neanche lontanamente simile a una struttura mito, però sono bellissimi lo stesso perché raccolgono una quantità di miti amerindi, soprattutto del nord e del Sud America, comparati anche con alcuni miti asiatici, che cioè, chi ha tempo di leggerli è una lettura veramente, uno sta lì e impara un cazzo, forse, io non ho imparato molto, ma insomma. Sono miti diversissimi da quelli greci, però insomma veramente affascinanti. Torniamo al diciamo linguaggio. Era quali sono i limiti del punto di vista dello strutturalismo? Le sue caratteristiche principali, ma anche i suoi limiti, per cui a un certo punto c'è nella cultura europea, ripeto, comincia negli anni 60, tra gli anni 60 e gli anni 70, comincia una reazione a questa. Non tanto nel mondo anglosassone, inglese o americano, che è sempre stato relativamente immune dalla. Loro erano sempre stati un po' strutturalisti già per i cazzi loro, non avevano bisogno né di Saussure né di Lévi-Strauss per supporre che ci fosse, però erano anche un po' più concreti da un certo punto di vista, la tradizione filosofica influenzata anche da Wittgenstein, ma soprattutto francesi e diciamo tedeschi e americani poi, perché gli Stati Uniti sono un paese imperialista in un sacco di cose, tranne che in uno, nella filosofia, in cui sono terribilmente sudditi dell'Europa. Quindi i più accesi strutturalisti e i più accesi antistrutturalisti li trovate negli Stati Uniti piuttosto che nei paesi europei, ma il punto di riferimento è, cioè Derrida è un filosofo molto più conosciuto, molto più studiato negli Stati Uniti che non in Francia, insomma, da un certo punto di vista. Però comunque, per cui soprattutto nella cultura, come dire, francese, c'è un moto di reazione, per cui nella filosofia c'è. Cominciano insomma quell'insieme di personaggi che vengono in genere banalmente riuniti sotto il nome di post-strutturalisti. Il post-strutturalismo in filosofia, e sono personaggi diversissimi l'uno dall'altro, diciamo Michel Foucault, Gilles Deleuze, e Jacques, sì, vabbè, Derrida. Fino ad arrivare all'ultimo, che è il più brillante, che però ha una strana un po' diversa, che è il più brillante, insomma, che è Baudrillard. Ma diciamo, soprattutto Foucault, a me mi interessa. Ma Deleuze anche, come dire, importante. Questa è tutta filosofia, questi sono tutti filosofi che però sono quelli che hanno orientato il pensiero nell'ultima parte, negli ultimi decenni del secolo scorso, quindi dagli anni 60 e 70 in poi, da un punto di vista, cioè tenendo conto di cos'era stato lo strutturalismo, ma criticandone i punti di vista fondamentali. Noi parleremo più che altro ovviamente delle influenze, diciamo, dell'aspetto linguistico di questa critica, sia perché vi ho parlato dello strutturalismo prevalentemente in linguistica, insomma. Allora, quali sono i due punti centrali della posizione strutturalista? intesa come la intendiamo noi. Allora, sono uno, diciamo, il concetto di struttura e il suo carattere profondo. Una struttura è qualcosa di profondo, di invisibile e di unitario. È un insieme di concetti e di relazioni che unifica e tiene insieme delle cose che apparentemente sono disparate. A livello fenomenico, superficiale, abbiamo i sistemi di parentela diversi l'uno dall'altro, abbiamo le varie lingue diverse l'una dall'altra. A livello profondo abbiamo un sistema concettuale che spiega delle regole generali, che spiegano tutti i diversi sistemi di parentela apparentemente diversissimi, o che spiega tutte le diverse lingue apparentemente diversissime, ma in realtà hanno una struttura. E quindi la seconda e più importante caratteristica dello strutturalismo è il suo universalismo. Lo strutturalismo porta di per sé a una posizione universalista. Esistono modi di pensare, strutture mentali, regole del pensiero, paradigmi, modi di organizzare il pensiero che sono tipici di tutta l'umanità. Tipici di tutta l'umanità. In linguistica l'erede più importante dello strutturalismo è Chomsky, che probabilmente voi conoscete per la sua militanza politica su posizioni anarchiche, più o meno, cioè, anzi rigorosamente anarchiche, per il suo lavoro di controinformazione nella... Ma in realtà Chomsky questo lavoro l'ha fatto da sempre, ma lo sta accentuando in questi ultimi anni, ma il suo lavoro scientifico è stato quello di, fino agli anni 50, di essere un linguista, probabilmente uno dei più grandi linguisti del XX secolo, sullo stesso livello di Saussure. Chomsky è nato negli Stati Uniti, ma è figlio di immigrati dall'Europa dell'Est, come dimostra chiaramente il suo nome di battesimo è di famiglia di cultura ebraica. E in realtà, se voi leggete le prime opere di Chomsky degli anni 50, trovate che Chomsky parte da una polemica contro la linguistica strutturale. Dice, ma come? Allora, se Caronia ci conta le palle, dice che... In realtà la linguistica strutturale contro cui Chomsky combatte è la linguistica strutturale americana, che ha poco a che fare con lo strutturalismo europeo ed ha poco a che fare con l'approccio, diciamo, sossuriano. È una linguistica, chiamiamola per così dire, analitica, che come dire, utilizza come metodo semplicemente quello dell'analisi delle stringhe linguistiche, prende le stringhe, cioè le sequenze di simboli linguistici, li seziona, li frammenta, tenta di ricostruire la ricchezza della, diciamo, grammatica, come dire, in modo, per così dire, è una linguistica di impronta empirista. Cioè dice, vabbè, ci sono le lingue, ci sono le cose, vedo lì, prendo le cose, faccio, diciamo, seziono, le categorie sono semplicemente l'astrazione, ciò che c'è di comune a diverse di queste cose. È esattamente l'impostazione induttivista che aveva criticato Karl Popper nelle impostazioni del circolo di Vienna diversi anni prima. In America, tra gli anni 30 e 40, dagli anni 20 e 30 in poi, attraverso personaggi come Bloomfield, come Sapir, la linguistica è fondamentalmente quella. Bloomfield e Sapir erano dei grandi linguisti, ma insomma, però poi la linguistica pratica che c'è ai tempi in cui Chomsky è giovane, era così. Allora Chomsky è totalmente contrario a questa cosa e dice no, bisogna andare a scoprire quelle che sono, quella che è la struttura profonda del, come dire, linguaggio. E lui dice la struttura profonda del, cioè un linguaggio deve essere unica per tutte le lingue. E quindi lui dice, io lo scopo della linguistica non può essere quello di questa linguistica strutturale come la chiama lui, che però ripeto è molto diversa dallo strutturalismo che di cui vi ho parlato io in queste, diciamo, lezioni. E quindi lo scopo della, diciamo, linguistica, dice lui, non è quello di analizzare le singole lingue, trovare qualche cosa, trovare dei metodi, i metodi migliori per sezionare le cose, perché dice lui è risolutamente anti-empirista. Lui dice l'empirismo non spiega un cazzo, e dice una cosa giusta dal suo punto di vista. Dice il linguaggio è una delle più importanti capacità umane ed è una capacità innata, non può essere spiegata. Cioè, arriva lì un bambino, la mente è tabula rasa, nel primo anno di vita il bambino sente una serie di suoni che all'inizio non significano niente per lui, che escono dalla gola delle persone adulte che gli stanno intorno. Dopo un po' comincia empiricamente ad associare alcuni di questi suoni con alcune azioni, con alcuni stati di fatto, a poco questo crea la sua competenza linguistica. Chomsky giustamente irride a questo, come dire, modello, perché che è la critica tipica che si deve fare a ogni posizione oltranzisticamente empirista. Sarà pure vero che nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, che non c'è nulla nell'intelletto che prima non sia stato nei sensi, ma questo intelletto deve avere già qualche struttura precedente, un po' formata, perché sennò è difficilissimo che dal mare delle cose. E così lui dice, sarebbe miracoloso, dice, è totalmente inspiegabile se il cervello di un bambino totalmente sgombro, totalmente vuoto, in un solo anno di vita, in un anno e mezzo di vita al massimo, potesse costruire così empiricamente da solo una cosa così complicata come è il linguaggio. Quindi dice lui, la mente deve avere già una predisposizione. Questo lo dico io, perché lui in realtà non usa, in realtà lui poi fa, come dire, gli dai un polso e spiega il braccio, insomma. Come questa predisposizione sarebbe stata scelta a livello tipo di DNA? Non sappiamo se, cioè, di DNA in quanto tale, no. La struttura del cervello sta molto al di sopra di quella del, diciamo, DNA. Ma certamente, dice Chomsky, ci devono essere una serie di strutture innate. Lui parla a volte di circuiti precablati, insomma, in qualche modo, no? Dentro il, diciamo, cervello, che sono quelli che consentono al bambino di, cioè è un, ci sarebbe già una sorta di forma ancora vuota, con tanti stati vuoti, che vengono riempiti con le singole produzioni, diciamo, verbali dal, come dire, bambino, il quale non deve fare altro che è sempre un grande lavoro, ma insomma, di mettere i suoni giusti nei posti vuoti giusti, in qualche modo, del suo, diciamo, cervello. Ma ci deve essere già qualcosa, ci deve essere già una struttura che alla sua nascita c'è già, ma in qualche modo. Chomsky non affronta mai questo problema, perché non è evidentemente uno psicologo. Chomsky non è uno psicologo, è un psicolinguista. Lui dice, per i miei scopi mi basta formulare l'ipotesi che è l'unica che può davvero spiegare i fenomeni dell'apprendimento del linguaggio, altrimenti, dice, per cui poi, non lo so, poi lascia ad altri con cui ha collaborato, anche più, eccetera. Allora, da un certo punto di vista, uno potrebbe, diciamo, il modo più diciamo, corretto o meno scorretto di mettere insieme questa idea chomskiana con le cose della, come dire, evoluzione, è che ovviamente c'è stato storicamente, alcuni, come dire, milioni di anni fa, questo processo di precablaggio. Però in qualche maniera una attività che era totalmente empirica, diciamo, quindi totalmente culturale 4 milioni di anni fa, a poco si è trasformata in qualche cosa di impresso, di preesistente, quindi di, diciamo, presente fino dalla nascita. Ma la conseguenza che Chomsky trae da questo è quindi che, essendo questa capacità di linguaggio, questa capacità di apprendere e produrre il linguaggio innata, innata nell'essere umano, ci deve essere una struttura del linguaggio profonda, uguale per tutti, universale. È quella che lui chiama la Universal Grammar. La grammatica universale. Ci deve essere una grammatica universale. E Chomsky ha dedicato gran parte della sua vita scientifica, del suo lavoro scientifico, che adesso negli ultimi tempi è, credo, molto diminuito, non ne fa quasi più, si fa tutto il resto, cioè, che è ovviamente meritorio, tutto questo lavoro contro le multinazionali, eccetera, ma per una parte della sua vita ha fatto veramente questo, e si è dedicato a cercare quali sono le regole. Se uno dice che c'è una grammatica universale, vuol dire che cercherà di scoprire le regole. Ed è quello che ha cercato di fare Chomsky. Bisogna dire che, dal punto di vista concreto, questo programma di... E quindi allora, come è l'idea? Qual è l'idea che Chomsky ha di questa grammatica, di questa struttura profonda, di questa grammatica? Il programma di Chomsky si riassume in due parole. Questa grammatica universale è generativa e trasformazionale. Che cosa vuol dire generativa? Vuol dire, il punto di vista di Chomsky fondamentale sul linguaggio si può esprimere così. Il fatto empirico fondamentale che ogni teoria linguistica deve spiegare è la capacità di produrre performance verbali potenzialmente infinite, un infinito numero di frasi totalmente nuove, con un numero finito molto piccolo di elementi. Chomsky osserva giustamente una delle critiche che lui fa al modello empirista di acquisizione del linguaggio, o anche dopo che lo si è acquisito. Lui dice: guardate che è stupido dire che il bambino nel primo anno di vita sente varie volte la stessa frase, quindi dopo la sentita 2, 3, 4 volte l'associa a qualcosa, dice, allora vuol dire che stai zitto, vuol dire che non devo più parlare, o mangia la minestra, vuol dire che devo mangiare quello che ho nel piatto. Perché, dice Chomsky, è sommamente improbabile che una persona ascolti due volte nella vita la stessa frase. Le frasi sono tutte diverse l'una dall'altra. Può darsi che un bambino particolarmente ciarliero oda varie volte la frase ma stai zitto. Ma anche una frase con gli stessi suoni in realtà può essere detta con toni di voce diversi, eccetera. E comunque è vero che la possibilità per noi di creare frasi sempre totalmente, completamente nuove implica, e che questa è comunque il fatto da spiegare per una lingua, come sia possibile creare una infinità di frasi ogni volta nuove, perché le situazioni sono diverse, sono nuove, con un numero piuttosto piccolo. E quindi lui dice: una grammatica è semplicemente un insieme di regole che prendono questi elementi, li mettono insieme in certe, come dire, categorie, e producono, consentono di produrre delle forme, delle strutture sintagmatiche, diremmo noi, di frasi quindi, di strutture proposizionali che poi riempite con le parole diventano proposizioni, tendenzialmente diciamo diverse. Allora, è chiaro che l'analogia tra questa concezione della grammatica e quella dei linguaggi informatici. I linguaggi informatici fanno esattamente questo. Con un piccolo alfabeto, con un piccolo numero di istruzioni e alcune costanti logiche, ma soprattutto le variabili, mettendo insieme regole logiche, no? Costanti logiche e variabili logiche, il programmatore costruisce una pluralità di discorsi, di stati, di righe di codice, che fanno fare alla macchina certe cose. C'è una analogia profonda tra, e quindi c'è una analogia profonda tra la grammatica, la linguistica generativa trasformazionale di Chomsky e la tendenza che in psicologia si chiama cognitivismo. E cioè quella tendenza della psicologia che mira a liberarci dal concetto di mente, come se la mente fosse qualcosa di staccato, separato dal corpo, che dice sostanzialmente che il computer è un modello un po' rozzo ma buono per una mente umana, che la mente umana funziona quindi come un computer particolarmente sofisticato, ma pur sempre un computer, e che cerca quindi di estrarre le strutture cognitive. Il cognitivismo in psicologia è molto affine al chomskismo in linguistica infatti non è un caso che Chomsky abbia collaborato sino dall'inizio con molti psicologi cognitivisti, insomma, perché la loro cosa è. Quindi è chiaro perché grammatica generativa, le regole della grammatica generano, producono strutture profonde però. Le regole della grammatica generano strutture, punto. Strutture profonde però. Dietro a queste due frasi che ho detto, se vi concentrate, il mio dispositivo grammaticale, secondo Chomsky, nella mia testa, non ha generato direttamente le frasi. Il dispositivo grammaticale che io ho in testa ha generato le strutture, probabilmente una struttura unica di questa frase. Com'era la frase? La genera, adesso non so già più perché quando faccio gli esempi e non ricordo, comunque parliamo in sul generale. Allora, il dispositivo grammaticale mentale degli esseri umani, secondo Chomsky, non genera frasi, genera strutture. Poi c'è un altro dispositivo o un modulo di questo dispositivo, il quale trasforma le strutture profonde in frasi, in strutture superficiali. Quindi la grammatica è generativa e trasformazionale. Vi faccio l'esempio più semplice. Secondo Chomsky, nel modo di pensare di Chomsky, dietro alle due frasi, scusa, Giuseppe ha sposato Maria e Maria è stata sposata da Giuseppe, non ci sono due strutture diverse, c'è una sola struttura. Una struttura verbale che dice c'è un attante, un soggetto, uno che fa delle azioni, che nel caso specifico delle due frasi poi è Giuseppe, un altro attante, un'altra presentazione che si chiama Maria. E c'è un'azione in mezzo che è sposare. L'esempio tipico di una struttura profonda in una grammatica generativa è questa. F, lo metto in italiano, in inglese sarebbe P, diciamo, o U. So, frase, sintagma nominale, sintagma verbale. In una frase c'è un sintagma nominale e un sintagma verbale. Questa è una struttura ad albero. Ovviamente il sintagma nominale può scindersi in vari altri sottocomponenti. Tipicamente un sintagma verbale molto spesso è fatto da una copula e da un aggettivo. Il tavolo è bianco, è bianco. No? Ora, secondo Chomsky, nelle due frasi Giuseppe ha sposato Maria e Maria è stata sposata da Giuseppe, la struttura profonda è unica. F, in questo caso sarebbe il primo SN rimane così, il secondo SU si scinde in un V e in un SN. Giuseppe sposa Maria. Giuseppe ha sposato Maria. Questa è la struttura. Quando io devo pronunciare la frase, posso scegliere se pronunciarla in maniera attiva, cioè dicendo che Giuseppe ha compiuto quella certa azione su Maria, Giuseppe ha sposato Maria, o se la dico invece in maniera passiva, prendendo il secondo sintagma nominale, invertendolo e dire quella certa persona ha subito l'azione fatta da quell'altro. La struttura profonda è uguale. Il modulo che è al lavoro, all'opera, nel trasformare la struttura profonda, Giuseppe sposare Maria, diciamola così, Giuseppe sposare Maria, viene trasformata nella struttura superficiale, Giuseppe ha sposato Maria o Maria è stata sposata da Giuseppe, con un modulo trasformazionale. Queste sono le trasformazioni. Dalla struttura profonda alla struttura superficiale ci vuole quel genere di cose. Bene. Affronterò la volta prossima, cioè in dicembre, perché ricordo a tutti che per due martedì di fila io non ci sono, e quindi recupereremo successivamente, svilupperò meglio questi ultimi 10 minuti, però adesso gli ultimi 10 minuti vi devo dire quali sono i limiti e quali sono di questa concezione e le critiche che sono state portate a questa concezione. Allora, ripeto, i punti chiave di ogni concezione realmente strutturalista e quindi anche della linguistica di Chomsky, a dispetto del fatto che Chomsky sostiene di essere contro la linguistica strutturale, sono il termine struttura e il termine universalità o universalismo. Esiste una struttura profonda che spiega invisibile, più profonda del livello fenomenico, che però spiega, è quella che dà unità ai fenomeni. Secondo, questa struttura è unica, è universale, è una caratteristica generale della mente umana. Quindi esiste qualcosa di... Qual è il corollario? Esistono dei contenuti positivi, dei contenuti descrivibili nella mente umana. Questi contenuti sono uguali in tutti gli esseri umani. In tutti gli esseri umani poi si articolano diversamente, la struttura superficiale sarà diversa, ma la struttura profonda è uguale in tutti, universale, ho perso il filo perché avevo testo una cosa brillantissima da dire, me l'ho già dimenticata, adesso la recuperiamo. Quindi, se c'è questa struttura, e quindi esiste qualche cosa che possiamo chiamare natura umana. La natura umana è descrivibile, si può descrivere. Ci vuole un lavoraccio, ma alla fine si troverà. Questo livello profondo che ci permette di descrivere, di listare, di fare un listato, di scrivere qualche pagina, di dare un'immagine, in qualunque forma, ma la natura umana è qualcosa che c'è, è qualcosa che è lì. Questa è la... sono i presupposti impliciti, ma inequivocabili, di ogni teoria grammaticale, generativa e trasformazionale, in particolare della linguistica di Chomsky, di ogni ipotesi cognitivista, di ogni, in pratica, è il vecchio universalismo, da prima cristiano e poi laico, diciamo nei due secoli, 600 e 700, che prepararono l'illuminismo. È talmente forte questa cosa, e Chomsky la sa benissimo, e infatti Chomsky ha spesso presentato la sua linguistica come la rinascita di una linguistica cartesiana, cioè delle idee che aveva sul linguaggio Cartesio e gli uomini del suo tempo, naturalmente, quindi si riferisce in particolare a un gigantesco lavoro compiuto dai gesuiti di Port-Royal in Francia nel XVII secolo, che furono la Grammaire de Port-Royal e la Logique de Port-Royal, due grandi libri, fatti poi scritti da uno e da Arnaud e Jean Nicot, che sono la grammatica e la logica di Port-Royal, cioè che sono quelli che Chomsky chiama logica e linguistica cartesiana. Ora, quindi abbiamo visto che lo strutturalismo nelle sue varie versioni e il chomskismo ci porta quindi alla nozione di universalismo, nozione non nuova, vecchia, perché è all'origine della cultura occidentale. Il neoplatonismo, che è la componente filosofica più importante del cristianesimo, implicava che ci fosse questa descrivibilità universale e quindi che ci sia qualche cosa chiamato natura umana. L'obiezione che si può fare al punto di vista strutturalista, da un punto di vista generale, è la seguente. E cioè, ve la dico in termini un po' immaginifici, ma insomma, che bisogna scendere così in basso per trovare questo livello universale, questo livello che accomunerebbe tutte le menti degli esseri umani, ma bisogna scendere così in basso e così in profondità, che dobbiamo totalmente abbandonare il livello della concretezza, della superficie, ma la superficie è l'unico dato di cui noi disponiamo realmente, e l'andare troppo in basso, troppo in profondo, o troppo in alto, che è la stessa cosa, troppo in astratto, ci fa perdere quello che è il punto di forza della, come dire, produzione umana, che è in realtà la ricchezza, che in realtà è la differenza, è l'irriducibilità a volte delle esperienze e dei modi di pensare umani. In altri termini, questo preteso livello strutturale universale non è una descrizione né di qualcosa che esiste né di qualcosa che spiega, ma è semplicemente la proiezione di un desiderio, certamente insito nella mente degli esseri umani, e non esprime altro che la volontà, il desiderio della mente umana di essere universale, il desiderio dell'essere umano di essere, da un certo punto di vista, a un certo livello, uguale a tutti gli altri. Ma non è. È molto poco una spiegazione, virgolette, scientifica, obiettiva. Indica semplicemente una aspirazione. Il linguista che meglio di ogni altro probabilmente, espresse il punto di vista opposto a quello di Chomsky, si chiamava Benjamin Lee Whorf, e non era neanche un linguista vero, un linguista di professione, insomma, ma era un funzionario dell'amministrazione americana, era un americano degli anni 50, 60, degli anni 40, 50, morì poi abbastanza giovane, scrisse diversi libri, diversi saggi di linguistica, ma da, diciamo, dilettante. Era allievo di un vero linguista che era Sapir, di un linguista ufficiale. Benjamin Lee Whorf in un saggio, e sopra, il suo punto di forza qual era? Era che conosceva molto bene le culture e le lingue indiane, diciamo, nativi d'America, perché lavorava in alcuni uffici di queste, diciamo, israeliane. In modo particolare lui riuscì a studiare una delle ultime comunità di indiani Hopi che c'erano, e quindi studiò la lingua degli Hopi, eccetera, che è una, allora, no, la lingua degli Hopi è una, il nome di una famiglia abbastanza generale, insomma, di una sottotribù particolare di questi Hopi. Diciamo, la cosa che scrisse Benjamin in questa cosa, che non riesco a, non me lo sono portato, quindi non posso citarvelo integralmente, ma vi dirò più o meno che cosa dice, era, ma lo espresse con tale chiarezza che questa cosa è nota ormai come principio di Whorf, contrapposto al principio di Sapir. Il principio di Sapir, dunque, Sapir è Edward Sapir, ed era il maestro di Whorf. In realtà il principio di Sapir esprime l'essenza del chomskismo, anche se non si chiama principio di Chomsky. Il principio di Sapir potrebbe suonare così. Esiste una struttura profonda unica per ogni linguaggio umano. Tutti i linguaggi umani sono basati su di un'unica struttura profonda, che Chomsky chiama grammatica universale. Il principio di Whorf potrebbe essere espresso così. Nessuna lingua è integralmente traducibile in un'altra lingua, perché ogni lingua è associata non solo a un modo di parlare, ma a un modo di pensare e a un modo particolare di vedere il mondo. Parlando lingue diverse si vedono mondi diversi. Il principio di Whorf, da un punto di vista linguistico, è ben chiaro ad ogni traduttore, ad ogni persona che faccia un lavoro di traduzione. Siccome io ho fatto e faccio ancora ogni tanto questo lavoro di, diciamo, traduzione, ho dovuto forzatamente riconoscermi whorfiano, mentre la mia formazione è totalmente diversa. Io mi sono laureato in matematica nel 1972 con una tesi di logica esattamente su Chomsky e sulla linguistica di Chomsky, e quindi sono stato influenzato quando ero giovane dalle cose che avevo letto di Chomsky. Sono stato chomskiano per almeno 10 anni dopo quegli studi. È stato soltanto quando ho cominciato, molti anni più tardi, quindi quasi 20 anni più tardi, a tradurre libri, che ho dovuto ripensare a questa cosa. Quindi adesso io vi, diciamo, dichiaro da che parte sto. Questo non vuol dire che voi dovete scegliere esattamente come ho scelto io, o potete anche non scegliere, potete fare i cazzi vostri, però insomma, voglio dire, bisogna che vi spiego, perché sennò sembra che... io ho una laurea in matematica, quindi ho una tradizione che è fortemente universalista, e poi sono stato anche marxista, che è più universalismo di così si muore, e sono stato anche, insomma, diciamo, chomskiano, alcune delle sfighe più terribili nella storia della cultura occidentale, lo dico adesso ex post, perché ho maturato altri punti di vista negli ultimi 30 anni. Chi traduce sa bene che ogni libro è realmente intraducibile, che quando uno traduce un libro, quando prende un libro, sia un romanzo, una cosa qualunque produzione linguistica, e la porta in un'altra lingua, non sta facendo una operazione meccanica e tutto quello che c'è nella lingua di partenza arriverà nella lingua di arrivo. No, non arriverà tutto. Le lingue non sono incomunicabili tra loro, hanno una parte comune, ma questa parte comune è una parte comune. Dalla lingua 1 alla lingua 2, questa è la zona in cui si può fare la traduzione. Ma c'è tutta una zona della lingua 1 che non entrerà mai nella lingua 2 e tutta una zona della lingua 2 che non entrerà mai nella lingua 1. Ogni volta che si traduce un libro ci si deve sforzare di cercare di trasferirne il più possibile da quello che c'era nel libro di partenza al libro di arrivo. Ma siamo sicuri che non sarà mai l'integrale. Ogni lingua ha un particolare rapporto, per esempio, nel significato delle parole, una area semantica delle parole non è mai esattamente uguale. Pensate all'inglese, all'italiano casa e all'inglese home e house, e capite, come dire, l'esempio più semplice, insomma, no? Ma ogni termine, poco o tanto, ha delle risonanze, delle armoniche, se sapete un po' di musica, un po' di suono, le armoniche, cioè i multipli di una frequenza fondamentale, no? Armoniche molto alte, invisibili, di cui non siamo consapevoli, ma ogni termine, no, io no, non posso prendere tutto le armoniche di quella parola, cioè tutta l'area semantica, e trasferirla esattamente nella stessa area semantica di un'altra parola in quella lingua. La parola che uso, con cui traduco quella certa parola, si perde qualcosa. Ovviamente ci sono, ne guadagna anche. Allora, il principio aureo del traduttore sembrerebbe questo. Cerca di trasportare il più possibile dalla lingua di arrivo e di aggiungere il meno possibile di partenza e di aggiungere il meno possibile in quella di arrivo. In realtà non è vero, la seconda parte della regola non è giusta, secondo me. Ogni operazione di traduzione è un'operazione anch'essa a suo modo creativa, cioè produce un'altra opera, un'altra cosa che prima non c'era. Io ho tradotto diversi romanzi di Ballard, che è uno scrittore inglese che è morto anche lui quest'anno da poco, e sono convinto che sia facilissimo tradurre Ballard, perché ha una musica, una cosa che secondo me anche nelle brutte traduzioni, diciamo, italiane, come dire, rimane. Quindi mi sono sempre sforzato sino dall'inizio, ovviamente, di rendere il più possibile ballardiano il mio italiano, però so anche che io scrivo in italiano e non in inglese, sono Antonio Caronia e non Ballard, e quindi sicuramente ho aggiunto qualche cosa. Io non posso, per quanto uno si sforzi, non può liberarsi della sua musicalità, della sua cadenza, della sua costruzione. Considererei una cattiva traduzione una traduzione che cercasse di spogliare il più possibile lo stile del traduttore dal suo proprio, perché ne sarebbe una traduzione un po' anonima, un po' morta. Il traduttore può ovviamente rinunciare, ma sbaglierebbe se lo facesse. Cosa dovrebbe cercare di fare il buon invece traduttore? Dovrebbe cercare di, fra le diverse corde che ha dentro di sé, ognuno di noi ne ha sempre diverse, privilegiare quelle che maggiormente sono in sintonia con quelle dell'autore di partenza. Questo sì, io avevo molte cose sintonia con l'immaginario ballardiano, e quindi alcuni, insomma, dicono, io spero che sia vero quello che dicono, che le imitazioni di Ballard sono buone, sono belle, sono ben fatte, probabilmente più di quelle che ho fatto di altri autori o di altri, perché io avevo e ho una particolare sintonia io con la cosa di Ballard, quindi probabilmente alcune delle però diciamo il principio di, adesso questa era una come dire divagazione, si può arrivare a dire delle cose pro o contro il principio di Worf da tanti punti di vista. Io vi ho detto il mio perché è una esperienza che ho fatto e che faccio, quella di passare i testi da una lingua all'altra, alcuni testi da una lingua all'altra. Diciamo accettato nella sua integralità il principio di Worf, un linguaggio non è solo un linguaggio ma è anche un modo di vedere il mondo, e quindi un mondo, e quindi nessun linguaggio è integralmente traducibile in un altro, ovviamente contrasta con l'ipotesi di Chomsky, perché potrebbe anche essere vero che esiste questa pretesa grammatica universale che dice Chomsky, ma a quel punto, secondo il principio di Worf, non sarebbe la cosa più importante, non sarebbe ciò di cui abbiamo bisogno per capire davvero il linguaggio. E la conseguenza a livello più generale, non soltanto linguistico, del principio di Worf è che la cosiddetta natura umana non è un insieme di tratti descrivibili. Non può esistere nessun elenco proprietà della natura umana, come l'elenco delle proprietà di un documento di Word o di Photoshop, proprietà, numero di byte, numero di eccetera. Non esiste una lista delle caratteristiche della natura umana, perché se non esiste la grammatica universale, se non esiste questa essenza, chiamiamola, universale del linguaggio dal punto di vista della descrivibilità, qualcosa però è chiaro che esiste. Il bambino nato in Italia, il neonato nato in Italia e trasportato all'età di un mese in Cina e sta con i cinesi, impara il cinese, non impara l'italiano. E quindi vuol dire che qualche cosa c'è di universale, che l'universalismo non va buttato via, l'universalismo non l'universalità. Ma molto probabilmente, se il principio di Worf è giusto, l'unica cosa che si può dire della natura umana è che è una smisurata potenzialità. La facoltà di linguaggio, che poi può diventare una o l'altra lingua, una qualunque delle lingue del mondo, dipende dal campione al quale sono stato esposto quando ero piccolo, ovviamente le lingue del mondo hanno una cosa in comune, che è la potenzialità o la facoltà di linguaggio, ma non più di questo. Facoltà o potenzialità di linguaggio non vuol dire grammatica universale, non vuol dire insieme di regole descrivibili, non vuol dire una lista di proprietà positive, positive vuol dire descrivibili, cioè messe nero su bianco, esplicitabili. La potenzialità è un concetto, la potenza anche se vogliamo, potenza in senso filosofico, la potenza è un concetto molto forte, molto produttivo, ma inevitabilmente vago. La potenza, finché è potenza, è qualcosa che non c'è, qualcosa che non esiste, è qualcosa che mi consente di fare tante cose. E la potenza sono come le cellule staminali, insomma, come le cellule staminali, possono diventare le cellule staminali totipotenti, non quelle monopotenti, no, quelle totipotenti, possono diventare qualunque cellula si voglia. La potenzialità è il fenomeno che è all'origine della vita, è il meccanismo fondamentale della vita, sarebbe strano che non fosse anche all'origine di un fenomeno biologico così importante come è il linguaggio. Il linguaggio è un fenomeno biologico. Il linguaggio è prodotto da un organo biologico, dal nostro cervello, è prodotto dai nostri 10 miliardi di neuroni con le loro connessioni. Sono ridicolo, uno può pensarla come vuole, ma insomma non occorre attribuire il linguaggio a nessuna sostanza, a nessuna essenza diversa da quella del corpo. Il linguaggio viene prodotto dai corpi, da quei pezzi di corpi specializzati chiamati cervello. Bene, vi ho accennato quindi alle possibili obiezioni che si possono fare al punto di vista strutturalista e alle, nelle varie lezioni che vi ho dato. Sono delle obiezioni che sul piano linguistico approfondiremo. Ciao Maria. Approfondiremo nelle due lezioni che seguiranno, no, in una lezione, spero di finire questa roba di buttarla via, in dicembre. Stop!